La scadenza del 30 settembre prevalentemente interessa gli intermediari abilitati, quindi i professionisti che dovrebbero già aver ricevuto l'incarico da parte dei loro clienti e dovrebbero già averli contattati per effettuare i versamenti che sono ormai lasciati alle spalle. Pensiamo alle scadenze di giugno, luglio e agosto quest'anno, quando si è messo mano al portafogli per versare le eventuali imposte dovute. Nondimeno il 30 settembre potrebbe essere anche una data da fissare sul calendario per quei privati che, avendo una dimestichezza con le procedure telematiche dell'agenzia, possono scegliere tranquillamente di inviarsi in proprio il modello. È una scelta, è una situazione per la verità non molto diffusa, ma è comunque certamente possibile. Tra l'altro io prima citavo il fatto che questa è una facoltà, cioè l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello unico da parte del singolo contribuente. Se fa una dichiarazione dei redditi non particolarmente complessa, magari questi contribuenti, dottor Valcarenghi, si sono avvalsi della facoltà di presentare il cosiddetto unico mini, anche se mi risulta, sulla base di trasmissioni che abbiamo fatto in precedenza, che non è un modello largamente utilizzato. Perché? Ma probabilmente perché non è nient'altro che una sorta di sintesi della usuale dichiarazione dei redditi privata di alcuni quadri che probabilmente statisticamente l'agenzia ha riscontrato non essere molto numerosi e quindi forse per facilitare la lettura delle istruzioni, le indicazioni per la compilazione è stato scelto quest'anno di adottare questo mini modello. Aggiungo io forse maliziosamente anche per mettere l'Italia un po' a far salire la posizione dell'Italia nei confronti degli altri paesi quando si fanno i confronti sul numero delle pagine per le istruzioni delle dichiarazioni dei redditi. Abbiamo un Non sistema un po' facciamo, ecco, complicato. non facciamo una gran bella figura, se mi sta dicendo? C'è un sistema tributario abbastanza complicato e quindi anche la dichiarazione che è l'ultimo passo per chiudere l'annualità ne tiene conto, insomma.